Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Dunque, alla fine è arrivato il verdetto della Corte Costituzionale tedesca, per cui via libera, seppur vincolato, devo dire, ma non in maniera preoccupante, stando alla reazione dei mercati e anche alle dichiarazioni di vari esponenti politici. Dicevo, via libera della Corte tedesca al fondo ESM, cioè la Germania potrà contribuire al fondo previsto per aiutare i paesi sotto attacco con lo spread che schizza, il fondo salva stati, come viene chiamato. I giudici di Karlsruhe hanno stabilito infatti che il contributo della Germania ci possa essere, l'hanno limitato però a 190 miliardi di euro. Ora, questa è la cifra esattamente corrispondente alla quota di capitale tedesco dentro questo fondo. Infatti la Germania contribuisce per il 27%, il fondo vale, ha una disponibilità di 700 miliardi di euro. Dicevo, la Germania ci mette il 27%, la Francia ci mette il 20% con 142 miliardi e l'Italia il 18% con 125 miliardi a disposizione, non già consegnati. Comunque, apriamo subito la puntata con le nostre campane, perché finalmente dalla Germania è arrivata l'ultimo elemento di incertezza, è stato levato l'ultimo elemento di incertezza. No, non è che la crisi sia finita, come scrive un ascoltatore ironizzando al 349-238-6666, però di tassello in tassello, dopo la banca centrale della settimana scorsa, dopo Draghi che ha detto parteciperemo, compreremo debito dei paesi in difficoltà in maniera illimitata, oggi un altro passaggio importante. Nella seconda ora del programma cercheremo di capire poi adesso quali saranno i prossimi passaggi, quando il fondo salva stati diventerà operativo, realmente operativo, chi potrebbe essere il primo paese, leggi Spagna, a chiedere un aiuto, anche perché tecnicamente non è che i tempi siano così brevi, bisogna formulare una richiesta, la richiesta va formulata al fondo salva stati, il quale poi, se dà il via libera, autorizza anche la Banca Centrale Europea a comprare debito di questi paesi. Comunque, la reazione dei mercati è, devo dire, netta in Italia, meno su altre borse. L'euro si è portato a quota 1,29. Le borse, dicevo, sono positive di uno 0,40% a Francoforte, di uno 0,11% a Parigi. Londra è negativa di uno 0,30%, l'America guadagna uno 0,20%, Milano tra le migliori guadagna l'1,1%. Questo grazie soprattutto a Finmeccanica più 4,70, ST Microelectronics più 4,5, Banco Popolare più 3,5, Saipem più 2,80 come Unicredit, Enel più 2,5 come Monte dei Paschi, Ansaldo STS più 2,40, Impregilo più 1,80 come Mediobanca, ma anche UBI Banca. Ancora invece negativo il settore del lusso dopo il profit warning, quindi l'avviso di utili più bassi delle attese lanciato ieri da Barbaris. Salvatore Ferragamo perde il 2,5%, Tod's perde lo 0,30%, Luxottica invece oggi guadagna uno 0,45%, negativa anche l'Automatica, meno 2,5%, di Assorin meno 2, Mediolanum meno 1,60, Enel Green Power meno 0,80. Cosa parleremo oggi? Beh, chiaramente del fondo salva stati, del via libera tedesco, però apriremo con il rapporto della Confesercenti, il rapporto sullo scenario economico 2012-2013. Oggi c'è stata anche una conferenza stampa importante che ha visto la presenza del Presidente del Consiglio Mario Monti, ma anche del numero uno della WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e si è parlato proprio anche di produzione industriale. La MI ha detto, insomma, gli scambi di commercio saranno inferiori alle attese, Questo nel giorno in cui è uscito anche un dato sulla produttività in Italia, sulla produzione industriale non bello. A luglio c'è stato un altro calo, meno 0,2%, che vuol dire un meno 7% rispetto a luglio del 2011. È l'undicesimo calo ininterrotto della produzione industriale. Ripeto, parleremo più avanti della decisione tedesca, comunque commenti tutti positivi. Angela Merkel ha detto che la Germania ha dato un forte segnale per l'Europa. Mario Monti ha detto che è un'ottima notizia perché rimuove l'ultimo ostacolo per l'entrata in vigore del Fondo Salva Stati, dell'ISM. Il fatto che la Corte tedesca abbia dato queste condizioni, però fino a 190 miliardi, secondo Mario Monti non avranno effetti sui mercati. Devo dire che ha avuto ragione. La dichiarazione è di questa tarda mattinata, ora di pranzo, ma i mercati restano positivi. Sentiamo Monti su questo. Non penso che questa limitazione segni un freno imprevisto al processo di stabilizzazione dei mercati. Mi pare che la sentenza dica soltanto che per aumentare l'impegno complessivo da parte della Germania occorrerà che intervengano le due camere tedesche, il Bundesrat e il Bundestag. Questo non mi sembra sorprendente. E anche il presidente dell'Unione Europea, Barroso, José Manuel Barroso, ha detto nel discorso sullo Stato dell'Unione: non ci sono più dubbi sulla irreversibilità dell'euro, basta con vertici che vengono smentiti il giorno dopo dalle stesse persone che hanno preso quelle decisioni, in riferimento ai governi europei, alcuni vertici in cui poi dopo l'accordo iniziavano i distinguo. E ancora l'Unione Europea non deve scusarsi per il suo modello sociale, ha detto il Presidente della Commissione Europea Barroso. L'equità si avrà con la lotta all'evasione e con la Tobin tax. Il futuro dell'Unione Europea è comunque di un'unione anche politica. Economic reform coupled with a genuine economic and monetary union. Riforme economiche unite a una vera unione economica e monetaria. Questi sono gli elementi necessari per andare avanti, per progredire. In autunno la Commissione pubblicherà un libro blu per una più profonda unione economica e monetaria. Questo libro blu sarà presentato qui al Parlamento europeo, perché questo tipo di questioni deve essere discusso con e dai rappresentanti del popolo. Il libro blu identificherà gli strumenti e anche i mezzi e le opzioni che li renderanno più efficaci, dall'uso di politiche coordinate alle risposte sui problemi sui conti pubblici. Il libro blu individuerà i passi da fare in futuro e anche interventi che potrebbero prevedere modifiche ai trattati. Questo perché alcune azioni, per essere efficaci, necessitano di cambiamenti nei trattati. Il libro blu conterrà gli obiettivi da raggiungere non solo nelle prossime settimane e mesi, ma anche nei prossimi anni. Not only in the next few weeks and months, but also in next years. E sempre sul tema dell'unione politica, il Presidente della Commissione Europea Barroso ha detto: attenzione, dobbiamo puntare a trasformare l'area euro, l'Europa, in una federazione di stati, un po' il modello americano, se vogliamo spingerci un po' in là. E nel 2014 sarà possibile che il Presidente della Commissione Europea, cioè chi prenderà il posto di Barroso, venga eletto, che sarebbe un passaggio importante, cioè se gli elettori dell'Europa potessero votare direttamente il Presidente della Commissione, sarebbe un elemento di democrazia, oltre che di democrazia anche di maggiore forse coesione politica. Ciò di cui abbiamo bisogno è una visione chiara e decisa per completare l'unione economica e monetaria, che si basi sul totale impegno per raggiungere un'unione politica più forte. Per questo dobbiamo fare tutto il necessario per stabilizzare l'euro e per accelerare la crescita nell'intera Unione. La Commissione presenterà diverse proposte. Abbiamo cominciato oggi con la supervisione unica per creare un'unione bancaria in linea con quanto prevedono i trattati. Presenteremo un libro blu per raggiungere una vera unione economica e monetaria. Le proposte saranno tutte in linea con quanto dettano i trattati. Ma quando non sarà possibile fare progressi, presenteremo delle proposte per possibili cambiamenti ai trattati in vista delle elezioni parlamentari nel 2014. Ci saranno anche proposte per rinforzare la democrazia. Questo è il nostro progetto. Andrà avanti passo dopo passo, ma con la grande ambizione di tendere verso una federazione di Stati-nazione come orizzonte per l'Europa. E poi il voto olandese, aspetti, le urne sono aperte dalle 7.30 di questa mattina, per la quinta volta in 10 anni vanno a votare gli elettori olandesi, al termine di una campagna elettorale tutta centrata sui temi economici della crisi europea, con un duello finale tra i due leader filoeuropeisti, il premier liberale conservatore uscente Mark Rutte e il laburista Diederik Samson. Adesso arriviamo da un lato a quello che ha detto Mario Monti oggi sulla necessità di difendere l'eccellenza del Made in Italy, dopo una missione ieri che, insomma, che il governo con le sue misure di emergenza ha avuto un impatto ciclico, cioè ha aumentato la crisi, non anticiclico, non l'ha ridotta. Però torna con prepotenza il nostro appuntamento sulla crisi degli altri, la crisi che altri non vedono o non vivono. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Oggi vorremmo mettere a costare due notizie, vediamo che il volo non sia troppo pindarico. Perché? Perché in Gran Bretagna, sapete come si sceglie il governatore della Banca d'Inghilterra, cioè il più importante banchiere del Regno Unito, colui il quale guida la banca centrale inglese? Beh, si sceglie con un annuncio, non è una battuta. Sul prossimo numero dell'Economist vi sarà un annuncio nelle offerte di lavoro: AAA cercasi nuovo governatore della Banca d'Inghilterra. E si potrà mandare il curriculum, dovranno sottoporsi a un colloquio di lavoro con il direttore generale del Tesoro. È una novità assoluta anche per il Regno Unito, lo ha detto lo stesso ministro dell'economia, il cancelliere dello scacchiere George Osborne, motivando la decisione con la necessità di promuovere un'aperta e leale competizione. Ora io dico, noi non siamo la Gran Bretagna, però arrivare addirittura come fanno lì a scegliere il governatore della Banca d'Inghilterra con un annuncio, con un'offerta di lavoro, colloqui, interviste, per me resta un modello, visto che qua invece funziona solo la cooptazione di carattere più o meno familistico. E vorrei mettere accanto a questa notizia quello che invece è successo ieri alla Camera. Praticamente in Commissione Lavoro della Camera dei Deputati italiana, chiaramente, si stava esaminando il disegno di legge per evitare che i portaborse dei nostri onorevoli siano pagati in nero. L'obiettivo cos'è? È fare in modo che vengano pagati direttamente dalla Camera e dal Senato e non più dal singolo deputato o senatore. Beh, una parte delle associazioni che rappresentano i portaborse, perché da noi ci sono anche associazioni che rappresentano i portaborse, si chiamano Ancoparl e Cocoparl. Ancoparl, che sembra quasi una battuta, Ancoparl, ma Ancoparl è contraria a una legge per eliminare il nero, vuole solo una modifica dei regolamenti della Camera. Cocoparl ha detto no, ci vuole una legge. Ora io dico, da un lato abbiamo la Gran Bretagna dove si sceglie il governatore con un annuncio, un'offerta di lavoro, dall'altro abbiamo la difficoltà a evitare che i parlamentari, cioè quelli che dovrebbero rappresentano i cittadini e dare l'esempio a tutti, paghino in nero i portaborse. Perché lo dico? Perché i senatori e i deputati ricevono 4.000 euro al mese in busta paga, diciamo così, per le spese di segreteria e quindi anche per pagare il portaborse. Solo una piccola parte va agli assistenti. Alcuni ricevono 1.000, altri 500 euro, i più fortunati 2.000 euro. Ma la cosa pazzesca è che solo 230 su 630 sono regolarizzati. Allora, ma ci vuole tanto in un paese come l'Italia fare in modo che i soldi vengano versati dalla Senato, dalla Camera e non dal singolo deputato, così evitiamo la possibilità di lavori in nero, sottopagati, senza i contributi, che non sono proprio un bel esempio in chi rappresenta la Repubblica Italiana. Complimenti a Coco Parl e Anco Parl, un applausino, glielo diamo? Ma sì, dai. Ma certo, l'Italia non è la Gran Bretagna, però. Intanto il premier Mario Monti, dopo le parole che hanno sorpreso molti, dicendo insomma abbiamo contribuito ad aumentare nel breve la crisi con le misure d'emergenza, la recessione con le misure d'emergenza che abbiamo preso, dicevo oggi Mario Monti, al di là del commento sul commercio internazionale che sia fondamentale, è tornato sul Made in Italy, ha detto che il governo spingerà per l'avanzamento dei negoziati del Doha Round sul commercio mondiale bloccati da diversi anni, il tutto però difendendo le eccellenze italiane attraverso la tutela del Made in e la lotta alla contraffazione. L'Italia, grande paese manifatturiero ricco di eccellenze che intendiamo difendere nel quadro della politica commerciale dell'Unione Europea, in particolare a favore di un accordo che preveda la tutela delle indicazioni geografiche, il cosiddetto Made in, e la lotta alla contraffazione, un migliore accesso ai mercati dei paesi emergenti per i prodotti industriali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere non tariffarie e i servizi, e la difesa degli interessi del mercato agricolo europeo. Il tutto nel giorno in cui, come dicevo, però l'Istat fornisce l'undicesimo calo consecutivo della produzione industriale italiana che a luglio rispetto al mese, a un anno prima, scusatemi, a luglio 2011 è calata del 7,3% e si crea un'altra situazione di crisi nelle acciaierie AFV, acciaierie Beltrame Spa. A Porto Marghera la conferma oggi che vi è la decisione di chiudere lo stabilimento che impiega 117 persone. E poi il rapporto presentato nel pomeriggio dalla Confesercenti con il Centro Studi REF, previsioni economiche 2012 e sull'andamento del 2013, un 2013 negativo, un PIL non così in calo come quest'anno farà un meno 2,3. Il rapporto Confesercenti REF prevede un meno 0,4% l'anno prossimo e pensate che in questo modo dall'inizio della crisi abbiamo perso il 7% del PIL e il 23% degli investimenti e il 3% degli occupati, 800.000 persone, con un accanimento, se così possiamo dire, della crisi sulle fasce più deboli, intendo dire anche le fasce produttive più deboli, piccole imprese, artigiani, commercianti. Siamo in collegamento con il presidente della Confesercenti, Marco Venturi. Buonasera, presidente. Buonasera. 150.000 imprese del commercio, turismo, servizi, artigianato e piccole e medie imprese dell'industria associate rappresentano complessivamente oltre 1 milione di occupati. Dicevo, voi avete rilevato come la crisi si sia accanita in modo particolare sulla parte più debole del sistema produttivo? Infatti abbiamo avuto una perdita, quindi tra la differenza tra aperture e chiusure, di 100.000 imprese. Questo vuol dire tanti occupati, vuol dire circa 300.000 occupati, insomma, tra di autonomi e dipendenti. Quindi una veramente iattura che dobbiamo in qualche modo cercare di tamponare. Quindi le nostre previsioni prevedono sicuramente un allentamento, diciamo, della caduta anche del PIL, ma restiamo ancora in territorio negativo e quello che pesa è la lunghezza della crisi. Più tempo passa, più le imprese entrano in difficoltà, più l'occupazione rischia di ridursi, quindi dobbiamo per forza cercare di spingere verso una ripresa dell'economia. Ecco, voi avete partecipato all'incontro con il governo, no? Per cui Mario Monti ha chiesto ai sindacati e alle associazioni che rappresentano invece i datori di lavoro, quindi Confindustria, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, di fare di più, no? Esigiamo che si faccia di più, un accordo, maggiore flessibilità, magari vediamo se il governo riuscirà a mettere qualcosa sul piatto. Lei che cosa ne pensa? Perché abbiamo visto i sindacati dire, beh, attenzione, l'unica vera mossa da fare è ridurre il cuneo fiscale, cioè l'ammontare di tasse che pesano sui lavoratori e che le aziende devono pagare, la differenza tra quanto tu guadagni e quanto costi all'impresa. Venturi. Ma noi abbiamo già collaborato col governo, per esempio, su tutta la partita lavoro, quindi quella riforma ha visto noi come Rete Impresa Italia in particolare, quindi noi e le altre confederazioni delle piccole e medie imprese abbiamo collaborato in maniera positiva e siamo arrivati comunque a una conclusione che alla fine abbiamo ritenuto abbastanza soddisfacente. È chiaro che però non basta, cioè non è che risolvendo, quindi facendo una riforma sul lavoro si risolvono i problemi, quando negli ultimi 6 anni abbiamo avuto una perdita di 7 punti di PIL, i consumi sono calati del 3,25%, gli investimenti del 23%, gli occupati, quindi 800.000 persone in meno, cioè questi sono i dati che ci portano ad allarmarci e a dire dobbiamo mettere un argine a questa cosa, e l'argine è sicuramente quello di risanare i conti ma anche alleggerire le imprese, perché con questo peso fiscale che abbiamo in Italia io credo che non faremo molta strada, quindi se non si affronta questo nodo che è il nodo principe in qualche modo, agendo, quindi la spending review è un fatto positivo che il governo ha messo in campo, ma ci vuole coraggio, perché non è che basta dire affrontiamo la spending review, per quanto l'affrontiamo, perché quello poi è importante. Quindi voi dite, se ho ben capito, con i risparmi della cosiddetta spending review, quindi della revisione della spesa pubblica, arrivando a un calo della spesa pubblica, il lavoro fatto dal commissario Bondi, si utilizzino questi soldi per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori e quindi liberare un po' di consumi? Sui lavoratori e sulle imprese, perché poi gli investimenti le devono fare le imprese, l'occupazione la fanno le imprese, e credo che uno dei problemi che abbiamo è quello della crescita delle imprese, ma se d'altronde proprio in questi ultimi anni abbiamo perso più di 100.000 imprese, la differenza tra aperture e chiusure, quindi non quelle che chiudono, poi aprono nuove, quindi si compensa. Cioè ci sono 100.000 104.000 imprese in meno. Microimprese in meno al netto di quelle aperte e chiuse, cioè sì, come dato finale rispetto al 2008. Esattamente, però abbiamo quindi un numero enorme in termini di occupati. Mi scusi, ma 104.000 microimprese vuol dire 2, 3, 4 dipendenti? Parliamo di imprese, poi sì, vabbè, è chiaro che sono piccole, medie. Ma dico, dando anche solo 2, 3 dipendenti in ogni microimpresa, stiamo parlando di 200-300.000 persone solo. Esattamente, perché dobbiamo considerare gli addetti, non solo i dipendenti, perché quel titolare, il collaboratore familiare, quando l'impresa chiude, quello è un disoccupato come quell'altro, e quindi certo, dobbiamo tenere conto di questi fattori, diciamo, molto, molto pesanti. D'altronde, se sull'altro fronte c'è un aumento del prelievo fiscale, dall'IMU, l'IVA, le accise, le addizionali regionali e comunali e così via, anche le famiglie stringono la cinghia e quindi i consumi chiaramente si allentano e quindi entriamo in forte difficoltà. Questo è il dato che noi dobbiamo cercare di ribaltare, quindi sì la riforma del lavoro, ma dobbiamo agire anche per esempio sulla riforma fiscale, per noi diventa una delle chiavi determinanti che deve lasciare un po' di risorse nelle casse delle imprese per investirle, perché il problema è questo qui, innovare, diventare competitivi, essere più competitivi, ma ci vogliono le risorse per fare questo. Venturi, grazie, ho capito la vostra posizione, ho capito anche le preoccupazioni che avete per il futuro, certo, insomma, che vorremmo anche noi vedere e capire, soprattutto più che vedere, come il governo intende reperire le risorse, al di là del piano per il sud che sono fondi europei, le risorse, quanto arriverà dalla spending review, se invece tutto quello che arriverà non verrà utilizzato per non aumentare l'IVA al 23%, cioè, ancora c'è molta nebbia su questo fronte. Grazie comunque al presidente della Confesercenti Marco Venturi. It's getting late, but I don't mind. It's getting late. tantissimi messaggi stanno arrivando al 349-238-6666 sul tema dei portaborse pagati in nero. Purtroppo dei parlamentari, devo confermarvi che solo 230 su 630 sono regolarizzati e sono ben 400 appunto quelli che sono in nero. Giustamente, non voglio essere populista, ma mi scrive un imprenditore che dice: ma come, ma io che ho un albergo, se dimentico di regolarizzare la persona che assumo al volo perché ho un problema la domenica, vengo multato, e molti altri scrivono una cosa analoga, e qua la Guardia di Finanza non va a controllare. Sì, in effetti, cioè, diamo come per scontato che serva la legge, ma che così vada bene. Attenzione, insomma, qualcuno vuole controllare i deputati e i senatori come fanno a pagare i loro collaboratori in nero? 1.000 euro, 500 euro? Chiedo. Befera! Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso, prima di arrivare alla borsa, che comunque ha chiuso bene a Milano, ripeto, soprattutto più 1,20%, vorrei restare in tema di economia italiana e tornare a occuparmi dell'Alcoa. Perché? Perché come oggi riporta il Sole 24 Ore, è arrivata una terza proposta per la fabbrica dell'Alcoa Porto Vesme. Tra l'altro è arrivata ieri sera la sorpresa via fax sia alla Regione Sardegna che al Ministero dello Sviluppo Economico, che è chiaramente all'Alcoa stessa. La piemontese Kitegen Research ha manifestato il proprio interesse per lo stabilimento di Porto Vesme. È una società che fino adesso ha fatto solo ricerca, ha brevettato di fatto l'utilizzo del vento ad alta quota per ricavare energia. Praticamente il vento viene catturato, tra virgolette, attraverso veli, aquiloni pilotati da sensori connessi ai computer. In quel modo le turbine girano con una maggiore continuità rispetto alle turbine eoliche tradizionali, alle pale tradizionali. Punterebbe e proporrebbe di portare la propria tecnologia a Porto Vesme, superando così il problema energetico, mantenendo anche la produzione di alluminio. Bellissima idea, insomma, ha cercato di capirci qualcosa in più la nostra Valeria De Rosa, che ha raggiunto il presidente di Kitegen Research, Massimo Ippolito. Il Kitegen è un progetto che non si riesce a raccontare sull'ascensore, come di solito i venture capitalist vogliono. È un progetto complesso che ha fatto tutto il suo percorso di ricerca negli ultimi 8 anni. Adesso abbiamo realizzato quello che è il piano industriale, anche un prototipo industriale, ha solo bisogno di andare in produzione. E il fatto che sia uscito l'articolo su Nature Climate Change ci ha dato l'idea di dire: adesso dobbiamo mostrare che non è una fantasia di un a livello di ricerca, ma ci sono le basi teoriche. Questo articolo spiega molto chiaramente che tutto il fabbisogno del mondo, quello italiano, dal territorio italiano, può essere soddisfatto dall'eolico troposferico a un prezzo, come dire, a un costo di estrazione molto più basso. Voi, come dire, vi occupereste di tutta la parte della fornitura dell'energia, poi ci sarebbe bisogno anche di chi mandi avanti proprio tecnicamente l'Alcoa come stabilimento che produce alluminio. Lo stabilimento che produce alluminio ha come sbocco naturale l'Italia. 150.000 tonnellate sono il fabbisogno dell'Italia. Se perdiamo questo alluminio c'è una ripercussione importante, anche perché le materie prime sono sempre più volatili e difficili da prevedere, da basare una programmazione industriale. Quindi è importante per l'Italia, non è che serva una grossa gestione di Alcoa deve produrre l'alluminio almeno per il fabbisogno italiano, per come è dimensionata. E poi le maestranze non è un mestiere difficile, l'azienda funziona, il tempo per ristrutturarla c'è, anche perché le ristrutturazioni puntano a dei miglioramenti di efficienza energetica. Se la fonte è rinnovabile e quasi gratuita, questa urgenza perde di importanza. Quanti soldi voi siete disposti a mettere sul tavolo? Quali condizioni volete per intervenire in questo progetto? A noi basta un'assistenza del governo, perché questi soldi possono tranquillamente arrivare dall'Europa. C'è più di 1,5 miliardi disponibile per iniziative che trasformano un'azienda ad alta emissione di CO2 come l'Alcoa in un'azienda che, anziché dover pagare i diritti di emissione, può vendere i suoi diritti. Quindi ci sarebbe un ulteriore introito che consiste di utilizzare la dotazione dei diritti di emissione di Alcoa, che adesso nel 2013 entrano in vigore, per avere altri fondi per far funzionare l'azienda. Chiaramente quello che può mettere Caigen, che è un'azienda che fino adesso ha fatto ricerca, è il contenuto, il patrimonio di conoscenza, il patrimonio, il saper fare, che in Italia tipicamente non viene valutato, ma se noi risolviamo un problema, quello è il valore. Di soldi in giro ce ne sono tanti che non sanno dove andare proprio per risolvere problemi di questo tipo. Ed è arrivato anche il commento del Ministero dello Sviluppo Economico sulla lettera di interesse presentata appunto da Caigen per Alcoa. È una proposta molto preliminare, scrive il Ministero, che descrive una tecnologia ancora in fase di sviluppo e di cui si richiede il cofinanziamento per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Auguri soprattutto ai dipendenti dell'Alcoa. ...17:46 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Volete sapere come va lo spread? Beh, 340 punti circa, 347, 340 e quindi relativamente bene, anche se, ripeto, poi la situazione sarà tranquilla e accettabile con uno spread sotto i 300 punti. E il motivo si chiama sì della Corte Costituzionale tedesca, ne parleremo nella seconda ora del programma. Buona la reazione delle borse, buona soprattutto a Milano. Più 1,20% Milano, più 0,46 mezzo punto Francoforte, più 0,20 Parigi, meno 0,20 Londra, e in questo momento l'America guadagna lo 0,22%. Bene in particolare alcuni bancari. Penso al Banco Popolare più 3,80, UbiBanca più 2,70, Unicredit più 2,5, Monte dei Paschi più 2,20 e ancora Mediobanca più 1,70%, Pop Milano più 1,1, Intesa mezzo punto percentuale sempre di rialzo, ma bene soprattutto Finmeccanica più 5%, quasi a 4 euro per azione, e STMicroelectronics più 4,60%. Ciao Condina, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. STMicroelectronics da un lato e Finmeccanica dall'altro. Allora, ST ha beneficiato, come è accaduto anche in passato, delle indicazioni positive della concorrente americana Texas Instrument sugli utili per azione di fine anno. Texas Instrument ha migliorato sostanzialmente le stime, ha aumentato la forchetta e quindi di conseguenza ci si aspetta adesso che anche ST possa ottenere dei risultati superiori a quanto stimato in passato. Per quanto riguarda Finmeccanica invece è tutto legato alla possibile ripartenza, secondo quanto riportato dai media negli ultimi giorni, dell'IPO, cioè del collocamento in borsa di Avio. A questa operazione, come noto, è legata alla cessione del 15% di Avio in mano a Finmeccanica al Fondo Strategico Italiano, una cessione che porterebbe nelle casse di Finmeccanica fino a 230 milioni di euro. E quindi il motivo per cui appunto il titolo si muove in questo modo. Tra l'altro vorrei far notare che oggi sono tra i titoli che si sono mossi c'è anche Fiat, o meglio Exor ha guadagnato il 2%, mentre Fiat Industrial l'1,20, Fiat Auto più 1,16%. Questo anche alla luce delle dichiarazioni di John Elkann, presidente sia di Fiat che dell'Exor, che in un'intervista che uscirà domani con Panorama dirà insomma la Fiat prevede di chiudere il 2012 con risultati migliori rispetto al 2011, sebbene il mercato italiano sia tornato ai livelli di 40 anni fa. Ancora tra i titoli invece Edison Risparmio, ieri ne parlavamo proprio con il responsabile legale, hanno ottenuto un mega rimborso, oltre 500 milioni di euro come compensazione per un acquisto di gas dal Qatar. Il titolo? Edison, le azioni ordinarie come sappiamo sono state da poco ritirate dal listino dopo che la francese EDF è arrivata al 99,5% del capitale della società. Sono rimaste le risparmio che quindi rappresentano ormai l'ultimo termometro borsistico del business della società e oggi hanno guadagnato il 12%, esattamente ti dico 13,5% dopo appunto questa rinegoziazione dei contratti gas col Qatar, che per quanto riguarda il 2012 porterà un impatto positivo sul margine operativo lordo di 450 milioni. Se consideriamo che il MOL atteso per il 2012 della società è tra 1,1 e 1,2 miliardi, capiamo bene l'importanza di questa rinegoziazione. Ancora c'è un ascoltatore che continua a chiedermi di Mer Tecnimoto. Io non ho visto nulla sul titolo oggi, però insomma chiedo venia, ma non è né tra i migliori né tra i peggiori, per cui noi andiamo avanti con le variazioni più significative. Migliore in assoluto Tiscali più 23%, e poi Edison abbiamo detto, Eurotech più 10,80%, Cell Therapeutics più 9,90%, Elica più 7,5%, peggiore Sopaf meno 17% e poi Montefibre meno 4,21%, Ciccolella meno 3%. Torniamo sui titoli invece di maggior spessore, il peggiore oggi a Milano è l'Automatica meno 2,42%. Sì, qui è tutto legato alla, diciamo, a una questione americana. Qui l'Automatica controlla la North Star Lottery Group, che sostanzialmente ha comunicato allo Stato, appunto, in cui opera negli Stati Uniti, che avrà utili inferiori rispetto a quanto preventivato sia per il 2012 che per il 2013. In parallelo per il 2012 55 milioni di utili in meno, per il 2013 20 milioni di utili in meno, e quindi insomma l'andamento peggiore delle attese del business americano si è riflesso sulle performance di borsa di Lottomatica. Citavo prima tra i migliori e i peggiori appunto Sopaf come il peggiore meno 17,5%, qui mi sa che c'entra la richiesta di fallimento da parte di Unicredit. Sì, qui la società come sappiamo naviga in cattive acque da tempo. Questa mattina è arrivata la richiesta di appunto di fallimento di Unicredit, che è uno dei principali creditori. Il management della società appunto invece un concordato preventivo, nei prossimi giorni insomma avremo la soluzione all'impasse. E invece Cell Therapeutics, che già citavo, già ne parlavamo ieri, insomma qui notizia di prodotto, non solo di mercato, più 9,90%. Sì, insomma, ha annunciato ieri l'avvio del programma di lancio commerciale di questo farmaco che si chiama Pixuvri nell'Unione Europea. È un farmaco che serve per il trattamento di pazienti adulti con il linfoma non Hodgkin. E insomma, dal punto di vista diciamo finanziario, il mercato ha premiato questa operazione. Ultimo settore, quello del lusso, già ieri penalizzato dal profit warning di Burberry's e quindi dell'annuncio di utili inferiori alle attese. Di nuovo oggi Salvatore Ferragamo meno 2,1, Tod's meno 0,40, diverso il caso di Luxottica che oggi invece chiude in rialzo dello 0,70%. Sì, ancora una volta diciamo il profit warning di Burberry si fa sentire anche oggi. Il lusso viene da anni decisamente brillanti, in cui spesso sono andati in controtendenza rispetto alla crisi, e forse appunto l'allarme lanciato da Burberry ha fatto ricredere qualche operatore. Ricordiamo comunque che Salvatore Ferragamo resta su livelli decisamente alti, più del doppio rispetto al prezzo di collocamento. Tra i titoli segnalo anche, visto che ce lo chiedete, Enel Green Power meno 0,80%, Mediolanum meno 1,60%, Diasorin meno 2%, ed Eni meno 0,33. Tra chi ha guadagnato invece c'è anche Saipem più 2,90, Enel più 2,90, Ansaldo più 2,5, Mediaset più 2% come in pregilo, A2A più 1,50, Pirelli più 1,50%. Grazie a Ceo Condira, Radio Corio, Sole 24 Ore. Mi fate notare che non ho dato le quotazioni oggi di oro e petrolio, anche in questo caso chiedo scusa, le diamo subito. La cosa più interessante oggi è l'oro, che dopo la decisione della Corte Costituzionale tedesca di dare via libera all'ingresso della Germania nel Fondo Salva Stati, l'oro è volato a 1749 dollari l'oncia, praticamente la quotazione più alta dallo scorso 29 febbraio. In leggero rialzo anche il petrolio, sebbene poco mosso, 97,30 dollari al barile a New York, mentre tensioni sul platino si stanno registrando perché in Sudafrica si sta estendendo la protesta dei minatori e oggi a farne le spese è stato il primo produttore mondiale di platino, la Anglo American Platinum. Il platino non serve solo per i gioielli, ma serve soprattutto a funzioni anche industriali. I lavoratori hanno bloccato l'accesso ai principali siti di estrazione e a questo punto l'Anglo American Platinum ha sospeso le attività con effetto immediato di tutte le sue miniere nella regione del Rustenburg in Sudafrica. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, occupiamoci adesso della notizia più importante del giorno, la più attesa sicuramente e la più importante perlomeno dal punto di vista economico, il via libera, anche se condizionato, della Corte Costituzionale tedesca al meccanismo europeo di stabilità ISM. I giudici di Karlsruhe hanno stabilito infatti che il contributo della Germania al Fondo di Salvataggio Europeo, fondo di salvataggio per i paesi in difficoltà, sia limitato a 190 miliardi di euro. Un aumento che è possibile, ma questo si potrà aumentare la dotazione, ma solo con un sì del Parlamento tedesco. 349-238-6666 come sempre per le vostre, per i vostri sms. Non posso continuare però a parlare dei portaborse pagati in nero dei parlamentari, ne abbiamo già parlato in apertura del programma. Im Namen des Volkes. Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung werden mit der Maßgabe abgelehnt, dass die Ratifikation des Vertrages zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus nur erfolgen darf, wenn zugleich völkerrechtlich sichergestellt wird, dass erstens die Regelungen des Artikel 8 Absatz 5 Satz 1 des Vertrages zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus sämtliche Zahlungsverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus diesem Vertrag der Höhe nach auf die in Anhang 2. Tutto chiaro? No, insomma, è il momento, il passaggio principale in cui il presidente della Corte Costituzionale tedesca dice in nome del popolo tedesco: vengono respinti i ricorsi contro la ratifica del contratto. La ratifica può essere valida solo se poi possono essere assicurati i seguenti articoli, e c'è un lungo elenco di vari articoli. Buona la reazione dei mercati, dicevamo, soprattutto a Milano, buona anche l'andamento dello spread. Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte, dove è corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera. Sì, buonasera a voi. Allora Alessandro, il giudizio politico innanzitutto, Angela Merkel ha detto la Germania oggi ha dato un forte segnale per l'Europa, è una buona giornata per la Germania e per l'Europa. Mario Monti ha detto, ma insomma è un'ottima notizia per il Fondo Salva Stati, non penso che vi saranno effetti negativi dalle condizioni poste, cioè dal tetto di 190 miliardi. Non penso che questa limitazione segni un freno imprevisto al processo di stabilizzazione dei mercati. Mi pare che la sentenza dica soltanto che per aumentare l'impegno complessivo da parte della Germania occorrerà che intervengano le due Camere tedesche, il Bundesrat e il Bundestag. Questo non mi sembra sorprendente. E questo è il giudizio appunto di Mario Monti, di Angela Merkel, anche Barroso ha detto non ci sono più dubbi sulla irreversibilità dell'euro. Prima domanda però di carattere forse tecnico. Allora, la Corte Costituzionale ha detto, a meno che non ci sia un voto del Parlamento tedesco, il massimo che la Germania può mettere nel fondo salva stati europei è 190 miliardi. Il fondo complessivamente avrà una dotazione di 700 miliardi ed è la quota di pertinenza della Germania, cioè il 27%. Un altro 20% lo mette la Francia, 142 miliardi. L'Italia è il terzo più grosso contributore di questo fondo, con 125 miliardi, il 18%. Non sono soldi che abbiamo già dato, sono soldi che mettiamo a disposizione. E poi c'è la Spagna con 83 miliardi. Alessandro, ma quando un paese però chiederà aiuto al fondo, non verserà chiaramente la sua quota. E allora la domanda è se la Spagna dovesse chiedere aiuto, gli 83 miliardi mancherebbero al fondo. Ho capito bene? Beh, non mancano perché no, in realtà non mancano perché non è detto che il fondo di primo acchito debba subito impegnare tutti i 500 miliardi, quindi comunque la cifra che si presume di cui la Spagna potrebbe aver bisogno resterebbe comunque molto al di sotto di questo. Non dimentichiamo anche un'altra cosa, che in realtà il capitale versato sono 80 miliardi, quando si parla di 500 stiamo parlando del complesso delle garanzie fornite, e questo vale anche per i 190 miliardi di euro messi a disposizione dalla Germania. Insomma, questa condizione è un po' una non condizione, nel senso che questa cifra la sapevamo già, era quella impegnata alla Germania, e anche la seconda, cioè che ogni aumento dovrà essere approvato dal Parlamento, anche questo era un po' scontato, nel senso che questa è la linea che ormai la Corte Costituzionale ha imposto da più di un anno al governo tedesco, cioè ogni decisione che viene presa in materia europea deve comunque passare attraverso da un'opposizione parlamentare, da un'approvazione parlamentare, per cui diciamo che grosse sorprese lì non ce ne sono state, una vittoria per la Merkel, che equilibra come al solito, sta su questa linea un po' di equilibrismo fra cercare di risolvere la crisi europea al tempo stesso far vedere che lei continua a difendere gli interessi dei tedeschi e dell'euro in contemporanea. Ecco, adesso cerchiamo di capire i prossimi passaggi, cioè in questo fondo con il via libera tedesco viene meno l'ultimo ostacolo, dovrebbe partire a ottobre, no? Essere operativo a ottobre. Tecnicamente sarà poi il paese che avrà, poniamo il caso, il paese X ha difficoltà, lo spread sale sopra livelli ritenuti accettabili o gestibili, chiede aiuto al fondo e a sua volta è il fondo che poi incarica la Banca Centrale Europea di comprare titoli di Stato di quel paese? No, non è proprio così, nel senso che non c'è nessun incarico da parte del fondo. Andiamo per tappe. L'8 di ottobre si riunisce per la prima volta il consiglio del fondo ISM. Da quel momento in poi diciamo il fondo è operativo, a patto che naturalmente nel frattempo i tedeschi abbiano approvato quelle piccole modifiche che ci sono state richieste dalla Corte nella legge di approvazione. Comunque diciamo l'8 ottobre prima riunione del fondo ISM, da quel momento in poi è lecito aspettarsi che un paese che ne abbia bisogno possa fare richiesta dei fondi. Cosa fa? A quel punto deve contrattare, deve negoziare il famoso memorandum of understanding, cioè una lettera in cui si impegna a rispettare delle condizioni di politica economica. E qui è un po' la ragione per cui fino ad oggi la Spagna soprattutto ha sempre resistito a fare questa mossa, perché teme che vengano imposte delle condizioni addizionali. Nel calendario di ottobre ci sono altre due date importanti: il 21 ci sono delle elezioni nel Paese Basco che sono importanti per il governo spagnolo, però il 29 e il 31 ci sono delle scadenze importanti di rimborsi di debito che la Spagna deve fare. Quindi diciamo che Rajoy vorrebbe fare questa richiesta dopo il 21, però al tempo stesso forse avrà bisogno di farla prima del 29, prima del 31, nel senso che poi ci sono questi rimborsi importanti che la Spagna deve fare. Comunque lì ci sarà un minimo di negoziato. È vero che si dà per scontato che comunque la Spagna, come del resto anche l'Italia forse ancora di più, ha nel frattempo fatto molte cose per cercare di mettere a posto i conti anche in termini di riforme strutturali, quindi non so quante condizioni addizionali possano essere imposte alla Spagna o all'Italia, considerando che poi si rischia con un'eventuale ulteriore stretta di creare una recessione ancora più brutale di quella che non sia già in corso. Hai chiarito molto bene i vari meccanismi e anche il fatto che la Spagna vorrebbe aspettare fino ottobre, ma forse tecnicamente non le conviene, perché se poi devi rimborsare delle obbligazioni in scadenza e non trovi e vai in difficoltà, ti conviene iniziare l'intera procedura prima. Molti ascoltatori scrivono: ma se la Spagna li chiede per primi questi soldi, poi ci affossa, cioè non permetterà all'Italia di poterne usufruire? No, perché teoricamente dovrebbero essercene abbastanza per entrambi, soprattutto se nel frattempo i mercati continueranno a secondare diciamo queste decisioni prese a livello europeo e continueranno a spingere i rendimenti a ribasso. È chiaro che più i rendimenti dei titoli sono bassi e minore, diciamo, i rendimenti di partenza, e minore saranno gli interventi che dovranno fare il fondo salva stati e la Banca Centrale Europea. Per precisare quel discorso che facevamo prima, la Banca Centrale Europea interviene una volta che c'è stato questo accordo sulle condizioni di politica economica. La Banca Centrale Europea interviene però con una sua decisione del tutto autonoma, se vuole poi fare questi acquisti di titoli che ricordiamo che Draghi ci ha detto che saranno di titoli con scadenze fino massimo a 3 anni, mentre il fondo salva stati eventualmente interverrà sul lungo termine. Però diciamo che la Banca Centrale Europea decide in maniera autonoma. C'è chi scrive: ma se ci fosse stato ancora Trichet alla Banca Centrale Europea al posto di Draghi, saremmo già affondati. Guardate, la storia non si fa con i se e con i ma, però è indubbio che Trichet, pur essendo francese, era molto molto sensibile alle esigenze tedesche, per cui mi sento di dire che probabilmente non avremmo avuto un'iniziativa così forte pro euro, magari più forte pro Germania, ma ripeto, sono solo supposizioni. ...18:20, ultima parte di Focus Economia. Alessandro Merli, tu già ricordavi le prossime tappe dall'8 di ottobre in poi. Si è capito qualcosa di più sulle condizioni però che questo fondo chiederà ai paesi che dovessero chiedere appunto l'aiuto? Perché insomma, a me a questo punto il dato politico mi sembra risolto, cioè il fondo c'è, anche la Germania è d'accordo, il dato tecnico è ancora a mio avviso un po' oscuro, cioè quanto sarà pesante chiedere aiuto? Ma le condizioni andranno negoziate paese per paese, dipenderanno anche da quello che i paesi hanno già fatto. In fondo è un po' come i programmi che venivano negoziati in passato con il fondo monetario, no? E non a caso Draghi la settimana scorsa ha detto: mi farebbe piacere che il fondo monetario partecipasse alla elaborazione di questi programmi, perché ha un'expertise di molti anni e anche ha dimostrato nei programmi con i paesi europei molta più flessibilità di quello che non abbia mostrato la Commissione, anche se il Fondo Monetario viene considerato di solito uno spauracchio. Comunque diciamo che come in quel caso si